Il punto di Stefano Folli. Naturalmente oggi il governo avrà la fiducia sulla riforma del lavoro e ovviamente non ci sarà alcuna scissione del Partito Democratico, salvo forse un paio di casi personali, ma in tal caso non sarebbe una scissione. Peraltro il testo su cui si vota non contiene in modo esplicito l'abolizione del famoso articolo 18 e quindi si va avanti come previsto, nella speranza che questa riforma non serva solo per una conferenza stampa ma produca risultati utili a un'economia in drammatica recessione. Nel frattempo è bene osservare quello che accade intorno al Quirinale, dove si consuma una farsa che oltraggia le istituzioni, dato che la testimonianza di Napolitano nel processo Stato Mafia potrebbe avvenire alla presenza di Totò Riina. Questo almeno è il parere dei pubblici ministeri siciliani. Vedremo cosa deciderà il giudice. Ma intanto, giorno dopo giorno, si realizza il perfetto cortocircuito. Un passo alla volta, sul banco degli imputati al posto della mafia stanno salendo le istituzioni repubblicane rappresentate dal loro simbolo principale. Riina, che sia presente o no alla testimonianza di Napolitano, può solo ringraziare.